prossima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Siete a bordo, dell'astronave Enterprise. Benvenuti, questa è Star Trek, viaggio nelle storie, E come per magia, noi dell'astronave Enterprise spesso compariamo qua su Spreaker Radio. Un saluto vi giunge da Andrea, un saluto anche da parte del capitano James Kirk, da Spark, dal dottor McCoy, da Sulu, da Bones, insomma, da tutto l'equipaggio dell'Enterprise. Scherzi a parte, questa sera c'è un bel speciale dedicato a Carmelo Bene, sicuramente uno dei più grandi attori teatrali italiani, quindi ci è sembrato giusto, insomma, fare un piccolo speciale proprio di 15 minuti. Vi ricordo in apertura anche il sito del programma, se avete voglia di interagire con Star Trek l'indirizzo è sempre quello, www.startrekonline.org. Lì trovate, insomma, tutte le varie coordinate per scriverci, per mandarci messaggi, per mandarci anche insulti, no scherzo, dai, visto che si parla di Carmelo Bene, diciamo così, era molto gioioso e direi molto ruota libera. Ricordo un Costanzo Sciolo che, insomma, lui si definiva veramente un raffinato estete, era un dio e tutti gli altri, soprattutto i giornalisti, erano la nullità. E lui ha usato altri termini che è meglio, insomma, non ripetere. Vabbè, ma Carmelo Bene era così, molto molto spontaneo. Vi dicevo di questo speciale che durerà veramente poco, però avremo modo di leggere qualcosina della sua vita, anzi lo facciamo subito. Carmelo Bene nasce praticamente a Campi Salentina il 1 settembre del 1937. Purtroppo il 16 marzo del 2002 è scomparso a Roma. Wikipedia lo cita come attore, regista e drammaturgo italiano. L'infanzia di Carmelo Bene, un po' come l'infanzia di tutti noi, è stata all'insegna della vivacità. Era un bambino, diciamo così, non molto molto robusto, diciamo, era gracilino, un pochino timido, introverso, però poi diciamo così nell'età giovanile è diventato, diciamo, un po' più estroso. Abbiamo avuto un'interruzione, scusate, ma qua capita anche questo, qua entrano di tutti, vabbè, così, no? Dopo aver visto l'infanzia, vediamo un po' la gioventù. A 17 anni decide di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza a Roma, senza tuttavia frequentare, quindi come vedete, insomma, era già, invece di andare a frequentare l'università, forse se ne andava in giro. Per quanto concerne invece il teatro, inizia sempre negli anni dell'università, si iscrive ad un'accademia teatrale dove muove, diciamo così, i primi passi. Dopodiché nel 1957 si iscrive all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ne frequenta i corsi per un solo anno, perché dopo un po' li ritiene completamente inutili. Questo era Carmelo Bene. Bene, ascoltiamo la prima canzone, scusate il gioco di parole, e poi continueremo ancora a parlare di Carmelo Bene qua a Star Trek. Quanto se si riflette sulla qualità degli stessi. Ci si rende subito conto di vivere in un mondo dove c'è interscambio di cazzate, dove la prima cosa che si dice quando si incontra una persona è tutto a posto, E la comunicazione, utilissima a scaricare le angosce, diviene una nuova tortura. Poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni. Qui il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Io mi sento in fondo a un posto. Tutta poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni. Poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni. Senti, il mio lui lei m'ha lasciato. Io mi sento un po' angosciato. Tutta poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni. Ed era il ristretto Poste e Telegrafi, una canzone che mi piace molto, così parla di solitudine, tutti siamo sempre su Facebook, Twitter eccetera eccetera, però poi magari nel nostro intimo siamo molto molto soli. Siete sempre all'ascolto di Star Trek, questa sera speciale Carmelo Bene, uno speciale direi velocissimo perché abbiamo pochissimo tempo. Abbiamo analizzato insomma la gioventù di Carmelo Bene, che nel 1957, come precedentemente ho riportato, si iscrive all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, però poi ha dei vari scontri con i professori che decide appunto di abbandonare l'Accademia. E dopo il 57 Carmelo Bene, diciamo così, ha una vita molto molto sregolata, da così non mi ricordo un pochino questi poeti maledetti, nel senso che non ha fissa dimora, viene spesso arrestato dalla polizia, quindi come vedete il carattere ora si è veramente formato ed è decisamente molto molto rabbioso. Vediamo un pochino, debutta a 22 anni in teatro con Caligola, era il 1959, dopodiché viveva a Roma, forse non l'ho detto, si trasferisce a Firenze. Proprio nel periodo fiorentino invece l'incontro con appunto col teatro, direi di un teatro importante, legge l'Ulisse e si innamora di questa opera, al punto che nel 1960, diciamo così, inizia a proporre sempre degli spettacoli teatrali. Vediamo un pochino, realizza il primo Amleto sempre in quegli anni lì e anche Pinocchio. Nel 1961 fino al 1963, pensate un po', costituisce il cosiddetto teatro laboratorio, realizzato in un locale di Trastevere nel cortile numero 23 di San Cosimato. Al teatro di laboratorio si allestiscono gli spettacoli di cabaret con titoli significativi come Addio Porco, una specie di happening goliardata o presa in giro che serviva a raggranellare del denaro attirando le persone ricche e snob delle zone. Infatti lui aveva sempre bisogno di soldi, Carmelo Bene, come precedentemente avevamo detto, perché viveva una vita un pochino sregolata e molto molto ai margini. Dopo il teatro di laboratorio, che viene chiuso definitivamente e sequestrato, Carmelo Bene insomma propone delle altre opere teatrali sempre con discusso successo, E vediamo un pochino, nel 1967, molto importante l'incontro con Pierpaolo Pasolini, che lo invita a partecipare al suo film Edipo Re. E questo incontro con Pasolini gli fa venire anche lui la voglia di iniziare a girare delle pellicole. Ricordiamo che Carmelo Bene ha girato pochi film, però alcuni veramente significativi, come la bellissimo, questo viene Wikipedia lo cita come capolavoro, lo sottoscrivo, Nostra Signora dei Turchi, che vince il Leone d'Argento al Festival di Venezia. Dovremmo essere nel 1968, io vado a ruota libera, scusate, perché i 15 minuti non è facile insomma raggruppare tutti insieme. Altre pellicole che vi ricordo di Carmelo Bene: Salomè del 72, Don Giovanni del 70, andiamo indietro, e appunto Capricci del 1969. Queste sono dei lungometraggi, però. Quindi avete visto Carmelo Bene attore teatrale, Carmelo Bene attore cinematografico e Carmelo Bene invece anche protagonista per la televisione italiana. E nel 1974 segna l'anno della sua prima apparizione in televisione con Quattro modi di morire in versi di Majakovskij, Bloch, Eslin, scusate, e Pasternak, scusate se la pronuncia non era proprio perfetta. E vediamo un pochino poi, sì, diciamo così, anche nel 1979 propone un Otello televisivo realizzato a Torino insieme a Cosimo Cineri, che era un suo amico. Per quanto concerne gli anni 80, sono anni sempre che lo vedono impegnato nel teatro e non solo, ma anche in televisione. Nel 1988 Carmelo Bene viene nominato clamorosamente direttore artistico della sezione teatrale della Biennale di Venezia. Anche qui scoppiano veramente un sacco di polemiche. Ricorderete tutti del 1994 al 1995 le sue apparizioni a Mixer Cultura della Rai e a Maurizio Costanzo Show, che hanno procurato, diciamo, molti ascolti, ma il personaggio veramente era, oserei dire, non dico tanto scandaloso, ma notevolmente bizzarro. E purtroppo siamo quasi giunti al termine. Vediamo ancora qualche piccolo aneddoto per quanto concerne Carmelo Bene. Nel 6 ottobre 2000 Carmelo Bene affida tramite pubblico testamento i diritti delle sue opere alla Fondazione L'Immemorabile di Carmelo Bene. Il 16 marzo del 2002 purtroppo Carmelo Bene muore a Roma e Giancarlo Dotti così lo ricorda. Non è solo l'amico che manca, ma quella voce, chissà dove è andata, quella voce che ci dava calma e forza, quella voce che dà la nostalgia di tutto ciò che abbiamo perduto senza avere mai avuto. Questo era il nostro speciale dedicato a Carmelo Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato, in 15 minuti abbiamo fatto l'impossibile, o forse è possibile, c'è persino quasi un fantasma di Carmelo Bene che aleggia qua nello studio di Star Trek, può essere. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto prossimamente con altri nostri speciali sempre qua su Spreaker Radio. Un abbraccio a tutti dal vostro amico Andrea.